mezzo da fa le 5 al parcheggio, 2, 3, 4 del capo in fondo, lo sai che li prendo. C'è Gianmarchino che sorride, c'ha l'occhio un po' spento, con Leo vicino che non parla ma c'ha il mondo dentro. Ricordo che eravamo pochi ma sempre felici, il paradosso che all'aereo sai preferivo la bici. Quando mi trovo in situazioni con gente in cravatta mi sento a disagio mentre parlano della vacanza fatta coi figli che frequentano la scuola migliore, con quel sorriso di chi pensa d'avere ragione. Io che cantavo nel parcheggio con Adriano Alessandro, per me l'arte nasce per strada e diventa poi altro. Se vorrei svegliarmi presto la mattina, oh oh oh oh, e ritrovare tutto come era prima, oh oh oh oh. Invece adesso sai mi sveglio e mi sento incostante, non so ancora che strada prendere. Invece adesso non ho tempo e mi sento distante da quello che volevo essere. Aperitivo grezzo e poi ritornavo per cena, ma non mangiavo e la saltavo come una preghiera. Con mamma che diceva Nico che faccia che hai messo, io che in silenzio dicevo scusa me ne vado a letto. Non dirmi come devo fare, non darmi consigli, non fare commenti, non fare morale, sto giù di morale, la mia vita uguale senza documenti. È pieno di artisti che scrivono dischi, si sentono tristi ma sono affaristi. Sono cresciuto con Blasco in macchina, insetta a pompare i suoi dischi. E guarda che dici, sono cambiato non penso, ho gli stessi amici e non mi fido del resto. Io mando avanti soltanto la parte senza emozioni, perché tra bestie vinci se il tuo pianto lo riponi. Ho una scorta di giornate che uso quando sono in basso, perché vivere scrivendo come uscire da un collasso. Non riesci, cadi a pezzi seduto tra i miei complessi, mi appoggio sui miei dubbi tanto son sempre gli stessi. E non importa quanto sudi ma conta quello che dici, posso urlare col sorriso e ci sei tu tra gli obiettivi. Tu che hai avuto la fortuna adesso di chi è rimproveri, ma è facile essere grande riempito d'oro tra i più poveri. E vorrei svegliarmi presto la mattina, oh oh oh oh, e ritrovare tutto come era prima, oh oh oh oh. Invece adesso sai mi sveglio e mi sento incostante, non so ancora che strada prendere. Invece adesso non ho tempo e mi sento distante da quello che volevo essere.